Ma il diavolo non è così nero come si dipinge, disse il capitano Holderness a Lois, accorgendosi del suo pallore e della sua aria terrorizzata. Ecco appunto, disse il consigliere Hawkins, il diavolo è dipinto? Si dice così sin dai tempi antichi, e non sono forse dipinti questi indiani, proprio come il padre loro? Ma è vero tutto questo? Chiese Lois in disparte al capitano Holderness, lasciando che il consigliere continuasse a dissertare senza badagli, anche se le due figlie lo ascoltavano con la massima reverenza. Ragazza mia, disse il vecchio marinaio, sei venuta in un paese esposto a molti pericoli, dalla terra e dal mare. Gli indiani odiano i bianchi. Se poi altri bianchi, e mi riferisco ai francesi su al nord, hanno braccato i selvaggi, o se gli inglesi gli hanno preso la terra e i territori di caccia senza il compenso dovuto, suscitando così la vendetta crudele di queste creature, chi può dirlo? È comunque vero che non è prudente addentrarsi nelle foreste. Per il pericolo di selvaggi in agguato, con le facce dipinte, e non è stato prudente costruire abitazioni lontane da insediamenti, e ci vuole un gran coraggio per viaggiare da una città all'altra. E la gente dice che le creature indiane sbucano dalla terra per tendere imboscate agli inglesi, altri poi dicono che si alleano a Satana per far scappare i cristiani da questo paese pagano su cui ha regnato così a lungo, e le coste sono infestate dai pirati, feccia delle nazioni, approdano e saccheggiano e devastano e bruciano e distruggono. La gente è terrorizzata da pericoli reali e per lo spavento immagina forse pericoli inesistenti, chi può dirlo? La Sacra Scrittura parla di streghe e maghi, del potere del maligno nei luoghi deserti, e persino nel vecchio mondo abbiamo sentito raccontare di quelli che hanno venduto l'anima per sempre in cambio di un po' di potere terreno per qualche anno. A questo punto tutta la tavola ascoltava in silenzio il capitano. Era soltanto uno di quei silenzi occasionali che capitano a volte senza ragione, spesso senza conseguenze, ma tutti i presenti ebbero motivo di ricordare, prima che molti mesi fossero passati, le parole che Lois disse in risposta, anche se parlava a bassa voce e pensava, presa com'era dall'argomento, che solo il suo vecchio amico, capitano, la sentisse. Sono creature paurose le streghe, eppure sento pena per quelle povere vecchie, anche se le temo. Ne avevamo una a Bedford quando ero piccola. Nessuno sapeva da dove venisse, ma si stabilì in una capanna di fango vicino ai campi comuni e viveva lì col suo gatto. Alla menzione del gatto, il consigliere Hawkins scosse la testa a lungo, cupamente. Nessuno sapeva di cosa vivesse, a parte ortiche e avanzi di farina d'avena e cibo simile che le davano più per paura che per pietà. Era tutta ingobbita, parlava da sola e borbottava in continuazione. La gente diceva che nella boscaglia che scendeva fino alla sua baracca metteva trappole per uccelli e conigli. Non so come accadde, ma molti si ammalarono al villaggio e una primavera ci fu una moria di bestiame quando avevo quasi 4 anni. Non ne seppi mai molto perché mio padre diceva che era male parlare di queste cose. So solo che un pomeriggio la domestica mi aveva portata con sé a prendere il latte e mi spaventai a morte passando per un prato dove un'ansa dell'Avon forma una pozza circolare profonda, dove una gran folla stava in silenzio. E una folla silenziosa, col fiato sospeso, fa battere il cuore più in fretta del frastuono e delle urla. Tutti guardavano verso l'acqua e la domestica mi sollevò in alto per farmi vedere oltre le teste della gente. Nell'acqua vidi Hannah con i capelli grigi sciolti sulle spalle e la faccia sporca e sanguinante per le pietre e il fango che le avevano gettato e il gatto legato intorno al collo. So di essermi coperta la faccia vedendo quello spettacolo orrendo, perché i suoi occhi, luccicanti di furia, incontrarono i miei. Povera creatura, tormentata e inerme. E mi riconobbe e gridò: figlia del parroco, figlia del parroco, laggiù tra le braccia della balia. Tuo padre non ha fatto mai niente per salvarmi e nessuno salverà te quando sarai esposta come strega. Oh, per anni e anni quelle parole mi risuonarono nelle orecchie prima di addormentarmi. Continuavo a sognare di essere nello stagno e gli occhi degli uomini erano pieni di odio perché era una strega e a volte il suo gatto nero era di nuovo vivo e ripeteva quelle parole tremende. Lois tacque. Le due figlie la guardarono, così eccitata ritraendosi con una sorta di stupore perché c'erano lacrime nei suoi occhi. Il consigliere Hawkins scosse il capo e mormorò parole delle scritture, ma la gioviale vedova Smith, maldisposta verso la cupa svolta della conversazione, cercò di darle un'impronta più leggera, dicendo: «E son sicura che la bella figlia del parroco ne ha stregati parecchi, da allora, con le sue fossette e i suoi modi gradevoli, vero, capitano Holderness? Siete voi che ci dovete raccontare le storie inglesi di questa ragazza?» «Sì», disse il capitano, «ho fatto la malia a uno nel Warwickshire, che non riuscirà mai a liberarsene, penso». Il consigliere Hawkins si alzò in piedi per parlare, si appoggiava alle mani posate sul tavolo. «Fratelli», disse, «se parlate con leggerezza vi devo riprendere. La stregoneria e gli incantesimi sono cose maligne. Sono convinto che questa giovane non vi abbia avuto nulla a che fare, neppure col pensiero, ma alla sua storia la mia mente si carica di presagi. La strega diabolica potrebbe aver avuto da Satana il potere di infettarle l'anima col peccato mortale, pur essendo solo una bambina. Invece di parlare vanamente, vi esorto a unirvi a me in preghiera, affinché il cuore di questa straniera nella nostra terra si purifichi di ogni impietà. Preghiamo». «Su, non c'è niente di male», disse il capitano. «Comunque, consigliere, se vi mettete a pregare, allora fatelo per tutti noi, perché tremo proprio che ce ne sia qualcuno qui che ha ben più bisogno di Lois Barclay, di purificarsi dall'impietà. E una preghiera non fa mai male a nessuno». Il capitano Holderness aveva degli affari da sbrigare a Boston, dove si trattenne per un paio di giorni. Nel frattempo Lois rimase dalla vedova Smith a vedere quanto poteva del paese sconosciuto in cui si trovava la sua nuova casa. Intanto la lettera della madre in punto di morte fu mandata a Salem per mezzo di un ragazzo che vi si recava per preparare Ralph Hickson alla venuta di sua nipote, non appena il capitano Holderness avesse avuto il tempo di accompagnarla. La considerava infatti affidata alla sua personale responsabilità, sinché non l'avesse messa sotto la protezione dello zio. Quando giunse il tempo di andare a Salem, Lois si sentì molto triste nel lasciare la donna gentile che l'aveva ospitata sotto il suo tetto e continuò a voltarsi finché vide la casa. Fu sistemata su una specie di scomodo carro dove c'era appena posto per lei e il capitano Holderness, oltre al conducente. Sotto i piedi aveva un cesto di provviste e dietro alla schiena era appeso un sacco di biada per il cavallo. Il viaggio a Salem prendeva infatti un'intera giornata e la strada aveva fama di essere talmente infida che era pericoloso perdere anche un solo minuto più del necessario per ristorarsi. Neanche le strade inglesi erano sicure allora, né lo furono per molto tempo in seguito, ma in America i sentieri erano semplicemente suolo disboscato. I ceppi degli alberi abbattuti restavano in mezzo alla via, costituendo ostacoli che solo la guida più cauta riusciva ad evitare. Negli avvallamenti si ovviava alla natura paludosa del terreno, mettendo dei tronchi di traverso sugli acquitrini. La foresta di un verde cupo, nel cui intrico di rami l'ombra si infittiva già in quella stagione dell'anno, avanzavasi in quasi a ridosso della strada su tutto il percorso. Incurante degli sforzi assidui che gli abitanti degli insediamenti vicini facevano per mantenere uno spazio libero su entrambi i lati, nel timore che altrimenti gli indiani in agguato potessero attaccarli di sorpresa. Gli stridi di uccelli strani, i loro colori inconsueti, suggerivano al viaggiatore, ricco di immaginazione o privo di esperienza, l'idea di grida di guerra e corpi dipinti di nemici mortali. Ma infine giunsero nei pressi di Salem, che in quei giorni rivaleggiava in grandezza con Boston ed esibiva il nome di una o due vie che però, a occhi inglesi, sembravano piuttosto un agglomerato irregolare di case, raggruppate intorno ai luoghi di ritrovo, o meglio al solo luogo di ritrovo, poiché un secondo era ancora in costruzione. Tutti intorno vi erano due palizzate. Tra l'una e l'altra si trovavano giardini e campi, per chi non osava far pascolare il bestiame nei boschi, esponendosi così al pericolo di andarlo a riprendere. Il carrettiere, mentre attraversavano Salem verso la casa di Ralph Hickson, mise al trotto il cavallo esausto, frustandolo. Era sera, l'ora in cui gli abitanti riposavano e i bambini giocavano davanti alle case. Lois fu colpita dalla bellezza di un bimbetto barcollante e si girò a guardarlo. Il bimbo inciampò in un ceppo e cadde con un urlo che fece accorrere la madre spaventata. Precipitandosi fuori, colse lo sguardo ansioso di Lois, sebbene il rumore delle pesanti ruote spegnesse il suono delle sue parole, volte a conoscere la gravità del danno subito dal bambino. E Lois non ebbe tempo di meditare sull'accaduto, poiché subito dopo il cavallo si fermò alla porta di una solida casa di legno, quadrata e massiccia, intonacata di un bianco latte. Una bella casa, probabilmente come tutte le altre a Salem. E il carrettiere le disse che lì viveva suo zio Ralph Hickson. Nell'agitazione del momento non notò, ma se ne accorse il capitano Holderness, che all'insolito rumore di ruote nessuno era uscito a darle il benvenuto. Fu fatta scendere dal vecchio marinaio e portata in una grande stanza, ampia quasi quanto l'entrata di una signorile dimora inglese. Un uomo, giovane e magro, di 23 o 24 anni, era seduto su una panca accanto a una finestra e leggeva un grosso infolio alla luce morente del giorno. Non si alzò quando entrarono, ma li guardò sorpreso, senza che alcun cenno di riconoscimento gli illuminasse il viso, severo e cupo. Non c'erano donne. Il capitano Holderness aspettò un momento e poi disse: «È questa la casa di Ralph Hickson?» «Sì, è questa», disse il giovane con voce lenta e bassa, ma non aggiunse parola. «Questa è sua nipote, Lois Barclay», disse il capitano, prendendo la ragazza per il braccio e spingendola avanti. Il giovane la fissò gravemente per un attimo, poi si alzò e, segnando accuratamente la pagina dell'infoglio che era rimasto aperto sulle sue ginocchia, disse, nello stesso modo cupo e indifferente: «Vado a chiamare mia madre, lei ne saprà qualcosa». Aprì una porta che si affacciava su una cucina calda, illuminata dalla luce rossa del fuoco, intorno a cui si vedevano tre donne intente a cucinare, mentre una quarta, una vecchia indiana con la pelle di un color bruno verdastro, raggrinzita e curva per l'età, visibilmente molto avanzata, andava avanti e indietro, a quanto pareva portando alle altre gli ingredienti di cui avevano bisogno. «Madre», disse il giovane. Attirata l'attenzione della donna, indicò sopra la spalla i nuovi arrivati e ritornò allo studio del suo libro, pur continuando di tanto in tanto a scrutare Lois furtivamente di sotto le sopracciglia scure e folte. Una donna alta e massiccia, oltre la mezza età, venne dalla cucina e rimase lì a esaminare gli stranieri. Fu il capitano Holderness a parlare. «Questa è Lois Barclay, la nipote di Mastro Hickson». «Non ne so niente», disse la padrona di casa con voce profonda e quasi maschile quanto quella del figlio. «Ma Mastro Hickson ha ricevuto la lettera di sua sorella, no? L'ho mandata io stesso per mezzo di un ragazzo di nome Elias Welcome, che è partito da Boston per venire qui ieri mattina. Ralph Hickson non ha ricevuto nessuna lettera del genere. È a letto, malato, nell'altra stanza. Qualsiasi lettera indirizzata a lui deve passare per le mie mani, perciò posso affermare con sicurezza che qui non è stato portato niente del genere. Sua sorella Barclay, che da nubile si chiamava Henrietta Hickson e il cui marito prestò giuramento di conformismo a Carlo Stewart e si tenne ben stretto il suo pane mentre tutti gli uomini devoti lasciarono il loro». Lois, che un attimo prima aveva pensato di avere il cuore insensibile e freddo per la scortese accoglienza ricevuta, di fronte all'esplicito insulto rivolto a suo padre, sentì parole venirle alle labbra e nello stupore suo e del capitano le disse: «Può anche darsi che fossero devoti agli uomini che lasciarono le loro chiese nel giorno di cui parlate, signora, ma non furono i soli ad esserlo, e nessuno ha il diritto di mettere un limite alla fede sincera sulla base di un semplice giudizio». «Ben detto, ragazza», esclamò il capitano, girandosi a guardarla con una sorta di ammirazione stupita e dandole dei colpetti sulla schiena. In silenzio, Lois e sua zia si guardarono negli occhi senza abbassarli per uno o due minuti. Ma la ragazza sentiva che il suo colore andava e veniva, mentre quello della donna anziana non cambiava, e gli occhi della giovinetta furono presto pieni di lacrime, mentre quelli di Grace Hickson continuavano a fissarla asciutti e immobili. «Madre», disse il giovane alzandosi di scatto, e un movimento così rapido non s'era ancora visto in quella casa. «È male parlare di queste cose, quando mia cugina viene tra noi per la prima volta. Il Signore le potrà dare la grazia in futuro, ma oggi ha fatto tutto il viaggio da Boston e sicuramente sia lei che il marinaio hanno bisogno di cibo e riposo. Non si curò di vedere l'effetto delle sue parole, ma si risedette e parve immediatamente riassorto nel libro. Probabilmente sapeva che la sua parola era legge per la madre arcigna, e infatti non aveva quasi finito di parlare che lei già indicava una panca di legno e, spianando le rughe del viso, disse: «È vero ciò che dice Manasse. Sedetevi qui mentre dico a Faith e a Nati di preparare da mangiare. Intanto avvertirò mio marito che una che si dice figlia di sua sorella è venuta a trovarlo». Andò alla porta, che si apriva sulla cucina, e diede alcune disposizioni alla ragazza più grande. Lois allora si rese conto che era la figlia. Mentre sua madre parlava, Faith se ne stava lì, impassibile, non curandosi quasi di guardare gli stranieri arrivati da poco. Aveva la carnagione del fratello Manasseh, ma i tratti erano più aggraziati, gli occhi erano grandi e arcani, come Lois vide quando in un'occasione si alzò e fu come se con uno sguardo rapido e indagatore si impossessasse dell'aspetto del capitano e di sua cugina. Vicino alla madre rigida, alta e angolosa, e alla figura appena più morbida della figlia, una bambina di circa 12 anni faceva ogni sorta di diavolerie, senza che nessuno vi badasse, come se fosse sua abitudine sbirciare da sotto le loro braccia, da dietro la schiena, ora da una parte, ora dall'altra, continuando a fare smorfie a Lois e al capitano Holderness, che sedevano di faccia alla porta, stanchi e piuttosto scoraggiati per l'accoglienza ricevuta. Per consolarsi, il capitano tirò fuori del tabacco e cominciò a masticarlo, ma ben presto la sua consueta duttilità gli venne in aiuto e disse a Lois a bassa voce: «Quel mascalzone di Elias dovrà fare i conti con me. Se solo la lettera fosse stata recapitata, avresti avuto ben altra accoglienza. Ma appena avrò mangiato qualcosa, andrò a cercare quel ragazzo e porterò qui la lettera. Così ogni cosa si metterà a posto, ragazza mia. Su, su, non ti abbattere. Non riesco a sopportare una donna che piange e che sei sfinita dagli scossoni e dalla fame». Lois si asciugò le lacrime e, guardandosi intorno per tentare di mutare il corso dei suoi pensieri, fissandoli sugli oggetti circostanti, sorprese gli occhi infossati di suo cugino Manasseh, che la osservavano di soppiatto. Non era uno sguardo ostile, eppure Lois si sentì a disagio, soprattutto perché aveva continuato a fissarla, pur dovendo aver visto che lei lo guardava. Fu contenta quando sua zia la chiamò da una stanza interna perché andasse dallo zio e sfuggì allo sguardo fermo del suo cupo e silenzioso cugino. Ralph Hickson era molto più vecchio di sua moglie e la malattia lo faceva sembrare ancora più vecchio. Non aveva mai avuto la forza di carattere che possedeva Grace, sua moglie, e ora l'età e il male lo riducevano talvolta a una condizione quasi infantile. Ma la sua natura era affettuosa e, tendendo le braccia tremanti dal letto in cui giaceva, diede il benvenuto a Lois senza esitare o aspettare conferme dalla lettura perduta per riconoscerla come nipote. «Oh, come sei gentile a venire a conoscere tuo zio attraversando tutto questo mare! Com'è gentile mia sorella Barclay a privarsi di te!» Lois dovette dirgli che non vi era nessuno in vita ad aspettarla a casa in Inghilterra, che in effetti non aveva più una casa in Inghilterra, neppure un padre e una madre in terra, e che era stata sua madre morente a dirle di cercar lui perché le desse una casa. Le parole le salirono soffocate dal cuore pesante, e il loro significato non riuscì a penetrare nella lenta percezione di lui, prima che Lois le ripetesse parecchie volte. E allora pianse come un bambino, più per la perdita di sua sorella, che non aveva visto da 20 anni, che per quell'orfana che stava lì in piedi davanti a lui, trattenendo a fatica le lacrime per cominciar bene la sua vita in quella casa sconosciuta. Ciò che più di ogni altra cosa aiutò Lois a frenarsi fu lo sguardo ostile di sua zia. Nata e cresciuta in Nuova Inghilterra, Grace Hickson aveva una sorta di gelosa avversione per i parenti inglesi di suo marito, che si era cresciuta negli ultimi anni, quando la sua mente vacillante aveva cominciato a struggersi per loro, dimenticando il buon motivo che l'aveva spinto a esiliarsi, e versava lacrime su quella decisione come fosse stato il grande errore della sua vita. «Senti, gli disse. Mi colpisce che tutto questo gran piangere per la perdita di una persona che è morta in età avanzata ti faccia dimenticare nelle mani di chi sono la vita e la morte. Parole giuste, ma dette in un momento inopportuno. Lois alzò su di lei uno sguardo di malcelata indignazione, che si intensificò al tono sprezzante di sua zia che, continuando a parlare a Ralph Hickson, gli accomodava il letto perché stesse più comodo. Si direbbe che tu sia un uomo empio con questo pianto continuo sul latte versato. La verità è che da vecchio sei come un bambino. Quando fummo uniti in matrimonio lasciasti ogni cosa nelle mani di Dio, altrimenti non ti avrei mai sposato. No, ragazza, disse cogliendo l'espressione del viso di Lois, non permetterti mai di fissarmi addosso quegli occhi furiosi. Faccio il mio dovere come è scritto e non c'è nessuno a Salem che osi dire una sola parola sulle opere o sulla fede di Grace Hickson. Persino il pio signor Cotton Mather ha detto che potrebbe imparare qualcosa da me. Nota. Cotton Mather, pastore puritano e scrittore americano, si guadagnò grande popolarità come predicatore e dal 1692 fu uno dei responsabili morali della caccia alle streghe, della cui esistenza era fermamente convinto. E ti consiglio piuttosto di mostrarti umile e sperare che il Signore ti faccia ravvedere, visto che ti ha mandata qui a vivere, per così dire, a Sion, dove la preziosa rugiada cade ogni giorno sulla barba di Aronne. Lois provò vergogna e pena, accorgendosi che la zia aveva interpretato con tale esattezza la momentanea espressione del suo viso. Provò anche del rimorso per l'emozione che aveva provocato quello sguardo e, sperando che il ricordo del lieve malinteso sarebbe presto scomparso, si sforzò di convincersi che sua zia poteva essere preoccupata di qualcosa prima dell'irruzione inaspettata degli stranieri. Tentava così di farsi coraggio, di non lasciarsi andare alla tenera, tremante pressione della mano di lui sulla sua, quando, ubbidendo alla zia, gli augurò la buonanotte e ritornò nella stanza esterna, o sala, dove tutta la famiglia era riunita in attesa della cena di focacce e selvaggina che Nati, la serva indiana, stava portando dalla cucina. Apparentemente, durante l'assenza di Lois, nessuno aveva rivolto la parola al capitano Holderness. Manasseh sedeva quieto e silenzioso al suo posto di prima, col libro aperto sulle ginocchia, gli occhi pensosi, fissi nel vuoto, come se avesse una visione o inseguisse una fantasticheria. Faith era accanto al tavolo e pigramente sovrintendeva ai preparativi di Natti, e Prudence ciondolava nel vano della porta tra la cucina e la sala, molestando la vecchia indiana mentre passava avanti e indietro, sinché Natti fu palesemente in uno stato di forte irritazione che invano cercava di reprimere. Poiché appena ne lasciava trapelare il segno, Prudence sembrava ancora più eccitarsi a tormentarla. Quando tutto fu pronto, Manasseh alzò la mano destra e disse quello che chiamavano il Benedicite, ma il ringraziamento divenne una lunga supplica astratta su benedizioni spirituali, forza per combattere Satana e spegnere i suoi dardi infuocati, e assunse infine, come sembrò a Lois, un carattere del tutto personale, come se il giovane avesse dimenticato l'occasione contingente e persino le persone presenti, e indagasse invece sulla natura dei mali che infettavano la sua anima inferma e li dispiegasse dinanzi al Signore. Fu ricondotto indietro da Prudence con uno strattone alla giacca. Aprì gli occhi chiusi, gettò uno sguardo irato alla bambina che in risposta gli fece una smorfia e poi si sedette e tutti cominciarono a mangiare. Grace Hickson avrebbe considerato la sua ospitalità gravemente in difetto se avesse permesso al capitano Holderness di andare in cerca di un posto dove dormire. Delle pelli furono stese sul pavimento della sala. Sul tavolo furono messe una Bibbia e una bottiglia quadrata di una bevanda alcolica per soddisfare sue eventuali esigenze durante la notte e, nonostante preoccupazioni e ansie, tentazioni e peccati di chi viveva in casa, dormivano tutti prima che l'orologio della città battesse le 10. La mattina seguente, il primo pensiero del capitano fu di andare a cercare il ragazzo Elias e la lettera perduta. Lo incontrò mentre la stava portando lì a cuor leggero, perché, pensava Elias, qualche ora in più o in meno non faceva differenza. La sera prima o la mattina dopo erano la stessa cosa. Ma gli chiarì il suo errore un sonoro ceffone sull'orecchio, proprio da parte dell'uomo che gli aveva ordinato di consegnarla rapidamente e che lui credeva si trovasse ancora a Boston. Dopo aver consegnato la lettera e aver fornito tutte le prove possibili del diritto di Lois a pretendere una casa dai suoi parenti più prossimi, il capitano Holderness pensò che la cosa migliore fosse di accomiatarsi. Può darsi che ti trovi bene con loro, ragazza mia, quando non ci sarà nessuno a ricordarti il tuo vecchio mondo. Su, su, separarsi è sempre un compito difficile e la cosa migliore è sbrigarlo in fretta. Non perderti d'animo, ragazza mia. Tornerò a trovarti in primavera, se tutti noi saremo ancora in vita allora. E chissà che un giovane ricco mugnaio non venga con me. Intanto non sposarti con uno di questi puritani tutti preghiere. Su, su, vado. Dio ti benedica. E Lois fu lasciata sola in Nuova Inghilterra.